Sentite, signore, col diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzobetti. Zonzobetti Vladimiro si presenta, eccolo qui. Sentite, signore, vengo a chiedervi ragione. Come mai la mia metà da 3 mesi a questa parte è di vostra proprietà? Come siete messi in testa, eh? Già sposami in società? No, no. Datemi Elisabetta, la vo. Io senza Elisabetta che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta. Datemi Elisabetta, Zonzobetti e la bella Elisabetta si sposarono, però un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Sentite, signore, col diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù a cercare mia cognata Immacolata, che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite, signore, un mio zio scultore in legno se voleva suicidare, che la moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi ci avete Elisabetta? E che vogliamo combinare? No. Datemi Elisabetta, la vo. Io senza Elisabetta che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta. Datemi Elisabetta, Zonzobetti e la bella Elisabetta si sposarono, però un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Sentite, signore, io tenevo una mucella tanto cara, ma cuccava assieme a me. S'arrubai un pezzo di carne a genovese e col gatto d'un marchese è scappata e più non c'è. Sentite, signore, m'è rimasta sola la nonna, 80 anni e forse più. Poi vedete che vado a casa e manca la nonna, trovi più. Ma questo mio si è selvaggio. Ma questo mio si è Zulu. No. Datemi Elisabetta, la vo. Io senza Elisabetta, che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta. Datemi Elisabetta, Zonzobetti e la bella Elisabetta si sposarono, però un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Elisabetta, torna con me, perché non dormi, Elisabetta, perché non vuoi tornare a me, Elisabetta.